9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon giovedì 27 di gennaio e approfittiamo di questa trasmissione per un'occasione di riflessione. Ci sono 3, 4, 5 interrogativi che io adesso vi snocciolo subito, poi vi dirò con chi li affronteremo per invitarvi a riflettere e iniziare a telefonare per vedere un pochino come la pensate voi. Al di là, ripeto, delle vicende personali, per un secondo astraiamo, non sto dicendo che non sia importante ovviamente la stile o la mancanza di stile, la cifra o la mancanza di cifra che le persone mettono quando si tratta delle vicende a cui assistiamo in questa settimana nella politica italiana, ma c'è un problema evidente in Italia di rappresentanza della politica perché non si è d'accordo sui criteri con cui partiti e istituzioni devono rappresentare dal basso verso l'alto e in orizzontale le diverse articolazioni del territorio italiano. L'esempio che faccio sempre è Berlusconi con la sua cifra particolare che in 16 anni ci ha messo nella Seconda Repubblica di impolitico, con tutto quello che questo significa, anche con le notti di Arcore, di fronte al quale cade la cosa della privacy perché la magistratura arriva all'ennesimo stadio di uno scontro che va avanti da 16 anni. Ecco, Berlusconi con la sua carica plebiscitaria sì anche, populista sì anche, carismatica sì anche, rispetto a come funziona una democrazia maggioritaria negli altri paesi occidentali, non è forse l'espressione di questa difficoltà? Prima domanda. Seconda domanda, di fronte al caso di Napoli, delle primarie di Napoli del PD, dove il PD esplode e deve annullare o comunque sospendere la decisione di tenere l'Assemblea Nazionale a Napoli perché fatte le primarie ci si prende a legnate all'interno del PD, è così diverso da quello che capitava nel PDL, ricordate, qualche mese fa in Campania a Napoli? No, anzi, peggio, perché nel PD poi c'è una lunga eredità che non è solo l'immondizia, è lo scontro interno tra Napoli e Salerno. Eppure quando si tratta di mettere mano a un meccanismo per tentare di ridefinire regole nuove, anche lì salta tutto per aria. E non vi pare che se a destra l'accusa della sinistra è che tutto sia di plastica e se non siano solo camerieri o indicati a tavolino, non vi pare che anche nel centro-sinistra ci sia un problema di rappresentanze territoriali? Ma perché Chiamparino e Cacciari nel nord sono riusciti davvero ad avere voce nel PD e perché Vendola da fuori del PD, ma vincendo per due volte, lui sì, questa volta alle primarie, è riuscito in qualche maniera a riarticolare una rappresentanza? Allora, seconda domanda, non c'è solo il problema verticale, c'è anche un problema orizzontale nel nostro paese. Si tratti di qualunque tipo di famiglia di rappresentanza politica, di la Lega che chiede il federalismo nelle istituzioni e riguarda le istituzioni o riguarda le vite interne di partito. C'è un dibattito che inizia anche in Confindustria, in cui se leggete alcuni dei contributi di questi giorni non è che ci si risparmia a toni anche duri. Mi sembra che c'è un problema di rappresentanza anche nel capire come si fa a mettersi d'accordo nella rappresentanza orizzontale del nostro paese. Terza domanda, ma il nostro paese è un paese nel quale, siccome ci sono, lo abbiamo sempre detto, tanti milioni di lavoratori autonomi, tanti professionisti, tanti artigiani, è una particolarità dell'Italia quella di avere piccola impresa e molta più voglia di scommettere su se stessi, ma alla fine questo ci ha resi e ci rende più ostaggi, più deboli di fronte a invece paesi che escono dalla crisi perché hanno più grandi imprese, perché esportano con un tessuto più solido. La Germania di cui parlavamo ieri per la politica. Allora, noi siamo più soli di fronte alla crisi? Siamo più soli perché è la lunga storia italiana o perché alla fine ci siamo arrivati a questo sviluppo troppo in fretta e alla fine non ne abbiamo mai condiviso per lunghi tratti queste che sono le grandi culture che servono per 100 anni, 150 anni e che danno la forza a un paese per starci, perché fino a 30 anni fa eravamo un paese con un livello di reddito pro capite tutto sommato molto molto molto basso e con fondamenti di cultura ancora agropastorali, quella era l'Italia in cui sono cresciuto io per esempio, che l'altro ieri per dire. Allora, questa terza domanda, perché queste tre domande? Perché dare una risposta alle questioni della rappresentanza verticale, per intenderci, della rappresentanza orizzontale, e dare una risposta che guarda alle nostre spalle dicendo ma le caratteristiche di lungo periodo della storia italiana, diverse da quelle degli altri paesi avanzati, restano ancora oggi qualcosa che ci rende più deboli, più soli? Ecco, queste tre risposte sono le classiche tre domande sulle quali da molti anni si interroga l'ospite che abbiamo Abbiamo due ospiti oggi, uno è Giuseppe De Rita, il presidente del Censis, e avrete capito che i tre interrogativi li ho sintetizzati così perché ci ha abituato da decenni a interrogarci da un punto di vista il suo su come sviluppo e rappresentanza nel nostro paese si legano. Io lo ringrazio e lo saluto, buongiorno Giuseppe De Rita. Grazie Giannino, buongiorno. E poi abbiamo l'autore di un libro che è il vice direttore del Messaggero, Alessandro Barbano, che mi ha consentito, leggendo il suo libro e leggendo il capitolo di De Rita, di fare questa riflessione e di dire: ma perché non venite a parlare con noi? Lui si chiama Alessandro Barbano, è il vice direttore del Messaggero, mentre il libro si intitola Dove andremo a finire, è uscito per Einaudi, e vi trovate belle, lunghe interviste che sono dei veri pezzi approfonditi, non tanto domande, battute, risposte come si fa sui giornali, perché il libro è bello corposo, con Giuliano Amato, Simona Argentieri, e Nicola Cabibbo, che è scomparso la scorsa estate, Umberto Eco, Sergio Romano, il cardinale Angelo Scola, Patriarca di Venezia, Umberto Veronesi e appunto Giuseppe De Rita. E quindi grazie a te per questa occasione di riflessione, Alessandro, buongiorno. Buongiorno e grazie a voi. Allora, io ti tengo, Alessandro, un po' come maniera per far parlare De Rita e poi a tua volta certo, aggiungere certo. Dal tuo punto di vista. Fa piacere ascoltare. No, fa piacere ascoltare, perché se, io non ci sarebbe se non avessi fatto parlare tu. Però iniziamo con questa questione della rappresentanza verticale. De Rita, lei che non ha nascosto mai le sue fondate argomentazioni critiche verso la maniera in cui il maggioritario, il bipolarismo... la semplificazione verticale della rappresentanza non l'ha mai convinto, però le chiedo: perché altrove funziona e da noi finisce con questi tratti che dividono tutti i campi della politica, che portano allo scontro magistratura contro politica e che hanno questi tratti di plebiscitarismo, populismo, inversione carismatica, che altrove o non ci sono o ci sono molto meno? È una dannazione italiana secondo lei, o perché sono gli anticorpi di chi è critico come lei a farci vedere queste cose che altrove invece non si vedono? Ma il problema è che in Italia noi abbiamo avuto una crisi duplice, di cui una di queste crisi l'abbiamo viste tutte chiaramente, l'altra è stata più sotto traccia. Qual è stata la crisi principale? È stata la fine della rappresentanza ideologico-partitica, cioè ci sentivamo rappresentati da grandi partiti a forte connotazione ideologica, il Partito Comunista, il Partito Democristiano, lo stesso Partito Socialista, se vogliamo anche i minori partiti, i repubblicani o i socialdemocratici, avevano questa impronta di essere macchine di rappresentanza legate a una dimensione ideologica, a una dimensione progettuale, anche a una dimensione elitaria, che quindi elaborava dall'alto la politica, la proponeva, ma aveva poi le possibilità di mobilitare la gente. Il Partito Democristiano mobilitava i suoi, i comunisti pure, e in pratica la rappresentanza, specialmente poi quando arrivava le elezioni, la rappresentanza veniva facilmente incanalata in questi grandi percorsi prevalentemente ideologici. Non ci siamo resi conto che accanto a questa crisi che c'è stata, il partito è finito, le ideologie ce le siamo scordate, non c'è più nessuna struttura politica che possa proporsi alla società dicendo: guardate, io ho questa ideologia, questa idea, ho questo progetto, ho questo programma. Non c'è più dal 1989, il muro di Berlino, finisce tutta una logica di rappresentanza verticale attraverso i partiti. Ma finisce anche, questo non è mai stato notato abbastanza, anche la gran parte della rappresentanza altrettanto verticale dei corpi intermedi, che in qualche modo avrebbero potuto anche diminuire il crollo della rappresentanza politica. Perché? Perché la gran parte dei corpi intermedi italiani era sostanzialmente legato alla politica, era sostanzialmente legato ai partiti. Era di fatto molto collateralista. Ecco. C'era collateralismo, quindi c'era l'associazione degli artigiani che si riconosceva nel Partito Comunista, si chiamava CNA, era l'associazione degli artigiani che si riconosceva nel partito nel mondo cattolico, che si chiamava Confartigianato. Quando questo puntello reciproco, c'era dappertutto, c'erano gli insegnanti medici, c'è stato nel mondo medicale, c'è stato nel mondo del commercio, dappertutto. Cioè fare rappresentanza categoriale di commercianti, di artigiani, di insegnanti, eccetera, però appoggiati al grande scheletro della rappresentanza politica. Quando il grande scheletro della rappresentanza politica è caduto, tutte le altre realtà, diciamo così, verticali, di andata verso l'alto delle istanze e categorie, sono rimaste in qualche modo in difficoltà. Lo vediamo adesso comincia, ad esempio, le categorie a rimettersi insieme, a collegarsi per contare di più. Pensi ad esempio al fatto che le tre centrali cooperative, una era la Lega Comunista, l'altra era la Cooperativa Bianca e l'altra era l'associazione di stampo repubblicano, hanno fatto il patto di unità d'azione perché non possono più distinguersi e lavorare in base alla loro connotazione di collateralismo. E analogamente poi Rete Italia, tra Confcommercio e così via. Anche io faccio un pochettino, aiuto l'unificazione o la convergenza di Confcommercio con cooperative, artigianato, CNA. Lei presiede la fondazione che è diventata la cosa comune, no? Sì, la casa comune di questi cinque. E naturalmente, però, ricominciare una dimensione di rappresentanza verticale che una volta era soltanto collaterale e deve far da solo, non si può più poggiare allo scheletro tradizionale del partito ideologico, e questa è fatica, questa è difficoltà. Noi oggi abbiamo una difficoltà, lei stesso diceva, la difficoltà dell'unica struttura che ha avuto sempre l'orgoglio di non essere collaterale, la Confindustria, ma anch'essa oggi ha le sue difficoltà, perché senza il rapporto con la politica si trova nuda. Abbiamo visto anche le ultime uscite della Marcegaglia, che critica il governo e poi si mette d'accordo col governo. Purtroppo tutte le rappresentanze verticali di tipo sociale e categoriale sono orfane della politica e soltanto adesso cominciano a far da sole. Questo è il problema che abbiamo. Lei ha una domanda che Bobano dice a un certo punto: ma se la verticalizzazione non ha un percorso costituzionale, e questo non si è riuscito a farlo in Italia, perché non siamo riusciti a cambiare la forma di governo, la forma di Stato, quindi è così. Lei dice: se la verticalizzazione della rappresentanza politica non ha un percorso costituzionale, essa assume la forma di una personalizzazione del potere. E qui ci si divide, per così dire, perché da una parte, dai tempi di Craxi, c'è questa questione aperta nel nostro paese, nella nostra politica. Dai tempi di Craxi c'è chi ha detto: siccome qui è tutto così vischioso, cambiare le regole, eccetera, prima semplifichiamo su una figura forte. Una volta che otterremo questa semplificazione, sarà più facile arrivare alle regole costituzionali. La verità è che mo siamo dopo 20 anni che ci poniamo in questa prospettiva, abbiamo ottenuto i difetti della personalizzazione senza cambiare le regole. Quindi lei dice: vedete che state sbagliando, mentre c'è chi invece continua a dire: o si insiste così o torniamo indietro al vecchio mondo della frammentazione. Come si esce da questo dubbio, secondo lei? Giannino, dal mondo della frammentazione l'Italia non uscirà mai. Dobbiamo tener conto che chiunque faccia qualche cosa, sia che faccia il ricercatore come lo faccio io, sia che faccia il presidente di associazione categoriale, sia che faccia politica, deve sapere che deve lavorare in un mondo frammentato. Se uno pensa che invece si possa avere un mondo unitario scolpito nel marmo, no, non faccia il mestiere, faccia altro. Naturalmente, però, negli anni 70 e 80, non a caso aveva fatto riferimento al primo Craxi, il Craxi del 79, 80, 81, c'era invece un bisogno di decisione, c'era un bisogno di interpretare la modernità decidendo, non mediando. La Democrazia Cristiana mediava, il mondo cattolico impastava la frammentazione, lo stesso Partito Comunista faceva i compromessi, eccetera, eccetera, e quindi ci voleva decisionalità. Per fare decisionalità, Craxi lo sosteneva tutto sommato, per fare decisionalità bisognava concentrare il potere, per concentrare il potere bisognava personalizzarlo, verticalizzarlo e personalizzarlo, per personalizzarlo ci volevano soldi e media, e purtroppo Craxi non c'era quest'ultima carta e l'ha pagata. Però lui finito lui. E inciampò sui soldi per procurarsi la visibilità. Finito lui, Berlusconi ha seguito quella strada, decisionismo, verticalizzazione del potere, personalizzazione del potere, mediatizzazione del potere, finanziarizzazione anche del potere. Quindi il processo è un processo, io dico un errore, che viene da lontano, e mi dispiace perché io ho avuto con Craxi degli ottimi rapporti anche intellettuali, però è partito da lì, da questi cinque momenti, queste cinque affermazioni, tutte concatenate l'una l'altra, è andato avanti, non sapendo che poi questo se tu dici io vado avanti su decisionismo, verticalizzazione, personalizzazione, però il mondo è frammentato, e tu fai un errore fondamentale, perché poi non sai fare. Tanto è vero che l'unico partito che oggi riesce ad essere veramente rappresentativo finisce per essere la Lega. Perché la Lega fa rappresentanza di territorio. Ma qui arriviamo alla seconda domanda, perché la Lega, in realtà tanto avversata secondo me in una parte d'Italia quanto all'inizio, lei per farsi identità l'ha messa nel mirino, e credo che questo sia stato un reciproco errore alla fine, perché poi se non si riuscirà a cambiare la rappresentanza in Costituzione neanche dei territori, cioè quello orizzontale, credo che avremo un effetto ancora peggiore di quella verticale. Però detto questo, il paradosso è che chi fin da all'inizio, invece di puntare sulla semplificazione verticale, dice ma no, cambiamo i pesi e la maniera di rappresentare il territorio, cioè la Lega, è a sua volta arrivata a un punto decisivo, perché qui o, come mi pare molto probabile, non si porta a casa un qualche tipo di maggiore autonomia finanziaria, di maggiore equilibrio, di maggiore anche di contribuzione alla rappresentanza nell'organo istituzionale, nella collettività istituzionale, nelle sue regole costituzionali, oppure noi ci troviamo con una rappresentanza orizzontale che non riesce ad avere anche di principi, regole comuni, soprattutto sbocchi. Io ho fatto l'esempio di Napoli e del PD, ma rientra in questa stessa logica, perché poi a destra succedeva la stessa cosa in Campania. Nessun grande aggregato politico ha regole condivise al suo interno su come si rappresenta nord, centro e sud, e questo si vede poi anche nella enorme difficoltà di trovare un condensato costituzionale per fare la stessa cosa dall'autonomia finanziaria a poteri condivisi. Siamo reduci da anni di spaventosa conflittualità alla Corte Costituzionale, dopo il titolo quinto, in cui ciascuno contesta le leggi dell'altro, regioni su regioni, regioni sul centro, centro su regioni. Come mai l'Italia, che viene, in quel caso lei ce l'ha insegnato, in una tradizione di storia economica, da Luzzatto e così via, perché quest'Italia che era così ricca di rappresentanza diversificata sul territorio non riesce a trovare una regola di equilibrio di rappresentanza orizzontale né nei partiti né nelle associazioni né tantomeno nelle istituzioni? Ma guardi, il problema della rappresentanza orizzontale è un problema di rapporto con il territorio, cioè chi sta sul territorio, chi capisce il territorio, chi sta dentro le frammentazioni del territorio. Questo vale per la discussione sulle primarie napoletane, chi sta dentro al territorio, Bassolino e Cozzolino, e probabilmente ci stavano dentro più loro, hanno fatto gli imbrogli, non mi interessa, ma certamente questo vivere pelle pelle con il territorio, anche se il territorio è molto sporco e disperante, è un fatto importante. Vendola l'ha anche dimostrato, era lui che viveva col territorio in maniera diversa. Dal suo avversario Boccia o da D'Alema, e viveva il territorio. Qual è il fondamento del rapporto rappresentanza orizzontale? Il rapporto con il territorio. Perché oggi la Confindustria è meno importante delle tante associazioni locali dove si fanno magari i contratti locali e non i contratti di settore tipo quello auto? Perché ha avuto da anni la fortuna e la storia di avere rappresentanza territoriale. Perché i miei piccoli di Rete Imprese Italia reggono ancora bene? Perché hanno buoni rapporti col territorio. Ah, ma ha deciso proprio di mettermi in difficoltà, eh. Io avevo fatto l'elegante citando le cose, ma lei proprio entra nel merito qui del mio editore, naturalmente, e io non intervengo perché questa è l'opinione di Derita, e mi fa piacere sottolineare a voi che siete in ascolto che, come vedete, il dibattito è vero, perché è vero, secondo me, quello che ci sta dicendo Derita sulla rappresentanza che riguarda tutti, tant'è che io per primo riconosco quello che è evidente a chiunque fa il mio mestiere, che anche in Confindustria si è aperto un dibattito di questo genere. Non l'ho interrotto per levare la parola, ma solo perché abbiamo l'obbligo di pubblicità, perché sennò poi sforiamo sulle mezz'ore di riferimento, quindi pubblicità e poi riprendiamo riprendiamo esattamente da dove l'ho interrotto. Eccoci tornati in studio, stiamo parlando con Alessandro Barbaro, vice direttore Messaggero, che ha pubblicato questo libro per Einaudi, Dove andremo a finire, con le testimonianze di 8 protagonisti della vita italiana, tra cui c'è Giuseppe De Rita, con cui ci siamo interrogati prima sul problema irrisolto della rappresentanza verticale, per capirci, nel nostro paese, e adesso lui stava sviscerando la seconda questione, quella della rappresentanza orizzontale. Citavamo la questione di Napoli del PD, abbiamo parlato un secondo della Lega, e lui ci stava giustamente dicendo: guardate, c'è una distinzione tra i problemi di Confindustria e la tenuta migliore di altre associazioni. Il punto è per capire, però, lei come pensa che ci sarà, a differenza di quella verticale che è aperta in una crisi di fronte ai nostri occhi, che si riassume nella vicenda Berlusconi, la rappresentanza orizzontale, lei è più ottimista che alla fine si troveranno queste regole, tanto in Costituzione per rispondere alla Lega, quanto nella vita degli attori sociali, degli attori intermedi di cui ha descritto questo processo di trasformazione, visto che il vecchio collateralismo 16 anni fa è morto, oppure ci sono gli elementi per essere altrettanto pessimisti per la soluzione della rappresentanza orizzontale? Quattro esempi. L'esempio più classico di rappresentanza orizzontale sul territorio in questo momento è la Lega. Lei sa che non sono mai stato molto amato, o non ho mai molto amato la Lega, però sono ammirato del fatto che oggi la Lega è un sindacato del territorio. Difende il territorio palmo per palmo, gli interessi del territorio palmo per palmo, non le singole aziende, le singole categorie di quel territorio, ma tutto il territorio. L'ha saputo fare molto meglio del Sud, a fare un bilancio storico di 15 anni. Come dico io scherzando, dicono: noi difendiamo Malpensa non perché lo IUB, non difendiamo il direttore, i vice direttori, difendiamo tutti, difendiamo fino agli addetti ai gabinetti, noi difendiamo tutto Malpensa, difendiamo tutto quel territorio. Questa cosa qui ne ha reso la Lega la più importante struttura oggi di rappresentanza orizzontale, anche se non avesse la vittoria politica sul federalismo, ne resterebbe questo. Continuerebbe a prendere voti perché sa far quel mestiere. Secondo esempio, la CISL. La CISL e in parte anche la CGL, perché stanno facendo su per giù lo stesso percorso. La CISL è oggi un sindacato di territorio. La maggior parte dei quadri CISL vive e lavora sul territorio, sfrutta la dimensione territoriale, si potrebbe dire fa un po' la Lega in termini sindacali, e quindi è presente. Se c'è un problema a Pomigliano o a Mirafiori ci sta, non è che sta a Roma soltanto. La CISL è il secondo esempio. Il terzo esempio è il mondo industriale. La Confindustria oggi ha una sua capacità di stare sul territorio, perché ci sono 110 direttori di associazioni industriali provinciali che sono bravissimi sul territorio. Il problema della Confindustria è di riportare al centro un discorso, però a un certo punto è chiaro che la Confindustria si trova di fronte al fatto che la crisi contrattuale ce l'ha su alcuni territori, esatto, come Milano, c'ha Mirafiori, non è che c'ha una discussione romana sulla crisi del modello contrattuale. Allora, come vede, resto su questi tre esempi, poi vado al quarto. Come vede, questi esempi sono esempi che hanno nella società una grande capacità di rappresentare, perché si legano al territorio. La domanda che mi faccio, ma lo faccio alla Lega, alla CISL, alla Confindustria: perché non si riesce da questa rappresentanza territoriale a salire a un modello di rappresentanza istituzionale? Perché la Lega è un ottimo sindacato di territorio, ma non riesce ad avere una cultura del federalismo, anche se è la grande sua battaglia, per cui per esempio non si è mai capito bene quanto la Lega fosse più regionalista o più vicina agli enti locali minori, non si è mai capito bene quale fosse la struttura poliarchica del federalismo, al massimo hanno parlato di una capitale decentrata. Perché? Perché questa capacità di stare sul territorio riduce poi la possibilità di fare modello, di fare sistema. Lo riduce anche per la CISL, per certi versi, nel senso che poi deve fare referendum, non è che possa fare una politica nuova, e lo riduce anche per la Confindustria, che ha a livello generale, nazionale, una difficoltà a far politica, mentre invece sul piano locale riesce a far quello, riesce sempre a tenere botta. E quindi quarto esempio? E quindi è questo salto dalla rappresentanza orizzontale a una strutturazione istituzionale della rappresentanza istituzionale territoriale, non so se mi sì. Dalla dimensione orizzontale avere quel po' di cultura verticale che dice sì, io faccio la rappresentanza di territorio, però mi organizzo anche i piani superiori. Noi siamo tutti a pian terreno e a pian terreno siamo benissimo, soltanto si dice ma dobbiamo costruire almeno due piani sopra, famo una palazzina, non facciamo il palazzo o il grattacielo. No, noi stiamo sul ed è questa difficoltà che lei ritrova nel quarto esempio, nella politica. La politica non ha mai saputo fare rappresentanza orizzontale da quando sono finite le sezioni, le parrocchie, il partito comunista, eccetera. Allora hanno inventato queste cose alternative, le primarie, le convention, le fondazioni, eccetera, eccetera, che non hanno assolutamente la possibilità di fare rappresentanza di territorio. Perché e la rete, no, secondo lei, internet non serve a dare risposta a questo problema? No, perché sulla rete non può essere soltanto Facebook virtuale chiami i compagni di scuola a chiacchierare. Nella rete devi mettere contenuti, devi mettere contenuti di interesse, se rappresenti interessi territoriali, categoriali, aziendali, eccetera, e devi mettere contenuti di programma, altrimenti c'è soltanto il vuoto per vuoto. Ecco, allora in questa siamo arrivati alla descrizione di questo secondo blocco di questione della rappresentanza. È una descrizione analitica, certo, di un osservatore di lungo periodo che ha i suoi punti di vista, non li ha mai nascosti, e naturalmente non è che indica facili ottimismi, per cui ci pensa già la politica a indicarli, e poi però vediamo che non riusciamo a uscirne fuori da decenni. Iniziamo a sentire alcuni ascoltatori e poi coinvolgiamo anche Alessandro Barbano, perché poi non è che lui fa solo le domande nel libro, c'è un problema in come in tutto questo poi l'informazione, quando si è alla testa, al piano di comando di un grande giornale di grande tradizione e anche di importanza nella politica, nelle istituzioni come il Messaggero, e come di tutto questo si diventa poi attori e non solo interpreti, perché poi vogliamo davvero scherzare che l'informazione non ha un ruolo in tutto questo. Iniziamo con una telefonata, ci chiama Livio da Verona. Livio, prego. Buongiorno. Sì. Fermo restando la mia partecipazione quotidiana alla sua bellissima trasmissione, grazie a lei. Le vorrei muovere non quella che non è una critica, ma un'esortazione, uno sprone. Ma anche le critiche per contratto dovete farle, perché senza ascoltatori che criticano, io che faccio? Sì, allora, dica critiche, pure. Critiche ne ho poche da muovere, anzi niente. Più che altro proprio un'esortazione, un invito a lei e ai suoi ospiti e alle sue trasmissioni, di andare ad analizzare, pur fermo restando la validità di questa analisi dei suoi ospiti, eccetera, che però girano intorno, per conto mio, a un vero problema della nazione, dell'Italia. Perché i veri problemi, quelli veri, quelli forti, quelli ai quali bisogna prestare maggiore attenzione, se non incidere, andare ad incidere veramente su questo, sono due in Italia. Uno è, premetto, la ferma vocazione del centro-nord a un certo tipo di attività economica, quindi alla piccola media industria, sì. Dove si mette in discussione l'individuo e dove si rischia in proprio. Ma lei ha detto, se non ci fossero due grandi errori che si commettono, non si perde, i due grandi errori che si commettono quali sono? Allora, finisco la premessa. L'altro problema dell'Italia è il centro-sud, dove la vocazione non è quella dell'impresa, ma c'è la vocazione dello statalismo, quindi di cercare il posto statale, il posto fisso, il posto sicuro. E laddove lo Stato non arriva e non può arrivare, subentrano i problemi, lo sappiamo tutti, di mafia e quant'altro. Il secondo vero problema dell'Italia, io lo chiamo cancro, mi permetta, è una no, vada al dunque, non si perda intanto parlare. È una cosa forte che sto dicendo, è la politica. Il nostro sistema politico fatto a piovra è il sistema mafioso di fare politica. In Italia abbiamo un cancro che ci sta divorando risorse, divorando possibilità, divorando attività, divorando la nazione. E da questo è qui che dobbiamo... Chiarissimo, lei dice c'è una doppia natura per quello, il modo di fare impresa tra nord e sud, e poi c'è la politica che è un cancro. È un'opinione molto radicale, tagliata con l'accetta, comunque è l'opinione di molti ascoltatori e poi di molti Radio 24, che noi siamo concentrati nord, centro, poi scendendo perdiamo un po' ascoltatori, quindi è ovvio che ci sia una rappresentanza anche maggioritaria di chi la pensa così rispetto a Capitolo Nazionale. Sentiamo anche Marco che ci chiama da Riccione. Prego Marco. Salve, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Una riflessione sulla rappresentanza verticale e su quello che erano le parole di De Rita. Un giorno quelli che ritenevano di essere rappresentati in Italia dalla socialdemocrazia si sono svegliati e hanno scoperto che il loro partito di riferimento non esisteva più. Non solo, che chi prima era assolutamente contrario, prendeva come un'offesa l'essere chiamato socialdemocratico, era diventato il rappresentante di quello che teoricamente doveva essere il loro partito di riferimento. E stiamo parlando dei socialisti e degli ex comunisti. Esattamente. Dopodiché si va a sparpagliare tutta questa la platea di chi prima votava in questo modo e aveva e riteneva che la sinistra in Italia potesse affiancarsi e allinearsi a quello che la sinistra in tutta l'Europa, per non andare oltre, e di conseguenza mi pare comunque tutto il mondo politico, anche quello che la parte centrale, la rappresentanza democristiana, si sparpaglia senza ritrovare più questo riferimento. È vero che lei dice che in gran parte dei problemi orizzontali e verticali ci siamo dimenticati di dire che la peculiarità italiana è quella di avere praticamente orfani delle due maggiori famiglie politiche che innervano i sistemi politici in tutta Europa, cioè quella cristiano sociale moderata da una parte e quella dall'altra socialista riformista dall'altra. E questo è vero, io la ringrazio Marco, perché questo elemento, che è un elemento strutturale del botto successo negli anni 92-94 e nel come non si è saputo bene dare risposte e contenere, io uso il termine per me che va usato, contenere gli effetti della cosa della magistratura. Io non sono dell'idea che ci sia il giudice a Berlino fiat justitia pereat mundus, mi sembra una maniera che singolarmente è stata adattata dagli Ironsides di Cromwell, dall'Inquisizione. So che molti si arrabbieranno adesso, ma pensateci, dal terrorismo giacobino ci sono dei passaggi traumatici di forma di governo, di forma Stato, una storia della modernità in cui l'abbinamento identitario tra costume etico individuale e morale pubblica, proposta addirittura con le cerimonie della virtù a Parigi, diventa il passaggio di un centro di fuoco tra un vecchio regime e un nuovo regime. Però dura poco, è sempre celebrata come coincidenza di vita etica individuale e morale pubblica, esattamente i temi di cui stiamo discutendo in queste settimane, però dura poco e poi si va a un regime diverso, equilibrato, regole nuove, eccetera eccetera, complesso, lungo, insomma il col Napoleone non è proprio l'indomani dei giacobini, però insomma questo capita negli altri paesi, in Gran Bretagna, in Francia, eccetera. Da noi invece l'attacco che fa chi governa l'opposizione a chi governa è dai tempi della Banca Romana, le lunghe polemiche contro Giolitti, vi ricordate il giudizio di Salvemini contro Giolitti, ministro della malavita, e si indebolisce il meglio insieme al centrodestra storico che l'Italia ha avuto fino al dopoguerra, oppure le polemiche di 40 anni sui forchettoni democristiani, ve le ricordate? Ecco, l'attacco sulla separazione tra morale individuale e morale pubblica è un refrain costante della vita italiana, che però non si concentra in poche stagioni di fuoco e dopo si costruiscono nuovi equilibri, indebolisce strutturalmente una sistemica incapacità di decidere italiana e ci rende sempre più spietatamente soli e convinti di essere migliori di tutti. In questa questione c'è anche l'orfanaggio della rappresentanza di cristiano sociale da una parte e di socialisti europei riformisti, diciamo così, dall'altra. Ora abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale. Eccoci tornati in studio, stiamo prendendo spunto dal libro appena uscito per Einaudi, Dove andremo a finire, dialoghi con Alessandro Barbani, vice direttore del Messaggero. Sentiamo Gianfranco che ci chiama da... Dove ci chiami, Gianfranco? Da Firenze. Da Firenze. Allora, buongiorno Giannino. Allora, io volevo fare una considerazione riferendomi proprio al primo cittadino di Firenze, Matteo Renzi. Renzi è una delle più interessanti novità di rappresentanza territoriale e di tentativo di inserirsi in quella verticale del suo partito. È proprio quello che io stavo considerando. Vale a dire, se lei considera il fenomeno, chiamiamolo... Senza il fenomeno Renzi, lei lo vede a livello nazionale come il nuovo Tuscan Obama, insomma, diciamo come il salvatore della sinistra. Se poi lei viene e fa un viaggio a Firenze e si rende conto, sulla base dell'operato di questo primo cittadino, quello peraltro istituzionale, sì, che l'opinione dei fiorentini, o perlomeno di buona parte dei fiorentini, è ben diversa, o comunque ancora sospesa, visto che ormai dopo 2 anni del mandato non è che poi abbia fatto delle interventi significativi sulla città di Firenze. Ecco, allora io credo che poi tutto sommato sia corretto immaginare che il successo di qualsiasi forza politica futura sarà sulla capacità seria di scelta dei propri amministratori e di chi li può rappresentare a livello locale. Alessandro Barbano, ma in conclusione prenditi qualche minuto di riflessione, perché tu hai fatto questo bellissimo libro in cui poni il problema come sarà l'Italia nel 2020. Questo è il filo comune di questa importante riflessione. C'è un iniziale blocco con Giuliano Amato, poi Giuseppe De Rita dà un'altra grande tradizione italiana, ma nella realtà l'informazione su questa questione della rappresentanza orizzontale e verticale di non riuscire a mettere né in Costituzione né in statuti di partito, di associazione di impresa, di sindacato, una maniera in cui ci si trova d'accordo nel capire chi rappresenta chi e chi decide che cosa. L'informazione, secondo te, in questi 16 anni è una parte del problema oppure è semplicemente spettatrice, perché non è lei che deve fare queste regole? Tu come l'hai vissuta nel quotidiano di cui sei sul ponte di comando? Ma, vorrei partire da quello che diceva il radioascoltatore, perché per esempio De Rita fa nel libro, in questo libro, una previsione, dice che le nuove forme della rappresentanza nasceranno proprio dal basso e nel regime federalista i nuovi leader saranno proprio i cacicchi, cioè i sindaci, i rappresentanti della politica dal basso, che riusciranno ad aggregare attorno a interessi territoriali comuni il consenso. Questa è una previsione, ovviamente bisognerebbe vedere il federalismo quando si realizzerà concretamente nella democrazia, se questa prospettiva si realizza oppure no. Per intanto ci teniamo questo tratto contrappositivo e questa vischiosità che è tipica di questo paese e che sta nella sua storia, perché noi partiamo da queste premesse, e che produce storicamente due fattori: il corporativismo e il conflitto permanente. Tu hai fatto, Oscar, un'inchiesta molto bella che abbiamo pubblicato, abbiamo avuto il piacere di pubblicare sul Messaggero nei giorni immediatamente precedenti la fine dell'anno, nella quale analizzavi le cause della mancata crescita del PIL in questo paese, a dispetto di qualunque forma di governo e di maggioranza politica. Cioè da 20 anni questo paese cresce meno del resto d'Europa. E il corporativismo, il conflitto permanente, era uno dei tratti che tu andavi a cogliere come uno degli elementi chiave per spiegare questa anomalia e questa scarsa crescita. In Inghilterra può accadere che due fratelli concorrano alle primarie per la carica di rappresentante del partito d'opposizione. Chi vince vince, chi perde perde, nessuno, diciamo, avanza sospetti di familismo, perché tutto si svolge secondo delle regole consolidate. In Italia invece le primarie di Napoli scatenano il putiferio. In realtà, cadute le forme della Prima Repubblica, che canalizzava questo dato identitario del paese, si è cercato con una legge elettorale di consegnare ai partiti il diritto di selezionare i candidati, di sottrarre gli elettori quindi alla possibilità di concorrere alla loro scelta. E certamente non era un modello di democrazia, ha contribuito a spingere il paese verso un bipolarismo, imponendo la coalizione come strumento per vincere le elezioni, quindi ha soddisfatto in un certo senso uno dei requisiti della democrazia, cioè garantire un'alternanza di personale politico alla guida del paese. Però non si poteva chiedere a una legge elettorale ciò che una legge elettorale non può dare, cioè la costruzione di un modello culturale condiviso in cui il paese si riconoscesse. E questo modello culturale questo paese in questo momento non ce n'ha, e questo il vero nocciolo della questione. E veniamo all'affermazione del nostro lettore che lamentava la mancanza di forza in questo momento, in questo paese, delle due grandi culture che fondano un po' la sua storia, la cultura cristiana sociale e la cultura riformista, no? Ecco, hai citato Giolitti. Nel 1919 il fascismo in Italia inizia con la caduta del governo Giolitti sulla contrapposizione laici cattolici su un tema banalissimo che è quello della scuola. Ecco, ma no, esatto. La debolezza della cultura cristiana e della cultura, diciamo, riformista laica di questo paese e la loro incapacità di dialogo è stata la frattura nella quale questo paese è andato al fascismo. È proprio così. Ecco. Ed è un tratto anche di questa stagione, tenendo presente anche che, e voglio riannodare un altro degli spunti da te evidenziato, la delegittimazione parlamentare, che è stato l'effetto di Mani Pulite e che non ci possiamo dimenticare, è qualcosa che noi ci portiamo ancora appresso, cioè è un tratto della democrazia italiana. Sai che dirlo è impopolare, perché invece è più popolare dire il contrario, però io l'ho sempre ripetuto, da allora a oggi. Diciamo, è una tentazione intellettuale alla quale non possiamo sottrarci se vogliamo fare questo mestiere con dignità. E rispondo alla domanda che mi fai all'inizio: che ruolo ha avuto l'informazione? Certamente l'informazione non ha avuto un ruolo di leadership, ha avuto un ruolo di specchio. E qui ti devo interrompere, perché non è un caso che ci vorrebbe uno specchio per vedersi, e la risposta finale di una delle tue interviste, come avrete capito, con De Rita si discetta, si analizza, e con Alessandro Barbano in questo libro, Dove andremo a finire, compratelo, e in Audi vale la pena dei 17,50 euro. Non abbiamo parlato certo in maniera che vi sembrasse molto demagogicamente popolare. Non abbiamo parteggiato per la curva sud o curva nord, come capita in questi giorni e settimane, però o si fanno riflessioni di lungo periodo ogni tanto, oppure guardate, i problemi della rappresentanza sono di lungo periodo, non sono l'anomalia Berlusconi personale. Questo è il mio commento finale, perché ripeto, la separazione tra etica individuale e morale pubblica è da sempre il fuoco in cui si salta quando c'è un problema enorme di rappresentanza irrisolto. A domani, Linea Giornale Radio.